interno ed esterno, pergole bioclimatiche, vetrate panoramiche, ringhiere in alluminio. Soluzioni su misura per valorizzare ogni spazio, dalla casa al giardino fino ad ambienti commerciali e professionali. 393-9908-286. Strutture moderne, resistenti, da vivere tutto l'anno. Questo è una festa per il palato e ogni visita ha il profumo delle cose buone. Panificio e panetteria di Roberto e Maria Paola, in via Civitavecchia 58, a Sassari. Radio Venere, notizie. Bentrovati dalla redazione Studio Alessio Galea, giustizia ed equità imprescindibili per la pace e la prosperità dei popoli. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato a Papa Francesco per la Pasqua, nel quale ha inoltre espresso i più fervidi auguri di benessere personale. In piazza San Pietro è iniziata la messa solenne per la benedizione Urbi et Orbi, si spera nella partecipazione del pontefice ancora convalescente dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli, ad officiare il Cardinale Comastri, Vicario Generale Emerito per la Città del Vaticano. La Russia non sarebbe realmente osservando la tregua di Pasqua annunciata ieri dallo stesso Vladimir Putin. Kiev denuncia decine di raid e attacchi lungo la linea del fronte. Un uomo sarebbe morto in un attacco con droni nella regione di Kherson avvenuto intorno alle 19, un'ora dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Di 30 ore la durata della tregua che dovrebbe terminare alla mezzanotte di oggi. Mosca replica accusando l'Ucraina di aver attaccato il Donetsk nelle stesse ore. Dopo l'annuncio di tregua, Putin nella notte ha partecipato alla veglia di Pasqua officiata dal patriarca ortodosso Kirill nella cattedrale moscovita del Cristo Salvatore. Zelensky ha affidato a Telegram il suo messaggio per la... Se tu non sai che dove vai, io sento solo il bip. Hola, escuchi Italia, por favor. No te siento. No, te siento de radio. Buttaci il microfono, mettilo in alto. E ora, adesso che sento. Avanti, avanti. Sacco le ciusci. Che vuoi che sia il carabiniere di Andara? E guardano lontano, tu sei più vicino. Sei un accadetto. Giovanni, mica stai scendo male. Cioè, non esce il radio. No, c'è il radio, confermo. Adesso la radio c'è, ma poco, quando sei entrato mezz'ora fa la radio non c'era. E riuscivi solamente l'importante e basta. E per perché c'era dormita la radio, adesso si è svegliata, ha capito Antonio. Ah, ecco, per quello, ecco, ho capito adesso. Comunque auguri Antonio. Anche a te auguri di buona Pasqua. Andà bene, andà bene. Senti questa propagazione? Sì, già la sento, meno male. È lontano sono, però gli altri sentono, bene pure, arrivano fortissimo. Meglio così, già finora, era ora. Adesso cominciano, a tempo caldo, vedrai come c'è il colore tutti. Grazie, almeno si sveglia nei canali. Facciamo gli ex tutti i giorni con i spagnoli, con i russi, con i cosi, con gli ucraini, capito? Così almeno sappiamo quante bombe scendono ogni giorno. Con gli ucraini, ohia. Ah beh, pari che tutti stanno disertando. Ora vai così, già lo sai anche tu, anzi forse sarà peggio, perché non può continuare così, hai capito? Sta facendo come Hitler, tale uguale, hai cominciato a prendersi una prima la cosa, poi si è preso l'altra, hai capito? Putin sta facendo la stessa identica cosa, adesso dice a un certo punto facciamo questo, poi facciamo quell'altro, eccetera eccetera, hai capito? Vedrai che si piglia anche l'Inghilterra da Putin, te lo dico io, fa quello che faceva, hai capito? Il fiume, tale quale. Però rimane appeso anche lui, lo dico io. Non ci perdiamo niente Antonello. Io non ci perdo niente, non credo che non ci perda lui, perché lui ha fatto di minacciare che non lo va a leggere, ecco, qualche giorno lo fanno fuori, te lo dico io, e se lo fanno fuori di lì lo fanno fuori da un'altra parte. E la stessa di qualcosa della seconda guerra mondiale, lui e Hitler, tu immaginati, lui sta in pratica ragionando come Hitler, tale uguale, per fottere il capito di europei, il discorso è quello lì, quindi prima o poi già si sveglieranno gli europei, no, dice ma quello, poi arriveremo in Russia, boh, e lui fa tutto. Ah beh, quello sì, questo è poco ma sicuro, ma già se ne pentirà, non ti preoccupare, non lui no, la Russia se ne pentirà, una volta che avrà preso tutti quei soldi e tutto quello che ci avrà, sta destinato a noi, hai capito? E la Russia sarà divisa in due, in pratica, metà degli americani e metà dei russi. E si faceva una volta come l'ha fatto con la Germania. E chi si ammazzano i russi, uno mezzo e l'altro, per carità. Oi. Ci siamo andato bene. Se ci migliora siamo peggiori. E vabbè, a fare io sono, non se la farei bene, tanto io lì ormai c'ho il pacchetto e se ne frega. Poveracci i figli che ci sono adesso, che erano in guerra e cosa del genere, capito, il discorso è quello lì. Tutto lì. Quelli che hanno 60 anni, mica li chiama a casa a andare in guerra, lo Stato italiano, no? Non penso proprio. Con Casmo che ci vado io. Ma tanto mai, e tu ci andare, tanto ti ammazzare prima di andare, ti ammazzare tu casa Matteccia, va. Così che tutti hai movisti, dico, sei in casa, ma qui ti ammazzare in casa, non c'hai, e sei in casa, non so pure, capito? Vabbè, quello sì, ci prepareremo al limite, capito, faremo un po' di cosa, tanto siamo tutti grassi, quindi a un certo punto faremo un po' di scuola e dimagrire un pochettino per poter essere più veloci, eccetera eccetera, useremo il mitra, useremo quello, useremo quell'altro, che non siamo abituati, cazzo, chiamiamo le braccia, cazzo, se uso un fucile con le gente, ti parte il braccio, cazzo, e ti spacca dietro, ti spacca, quindi a un certo punto, vai, tranquillo, non ci mancherà molto. Per carità ragazzi, ma chi so battere in tutti a Torre, a tutti i pezzini, tanto chi dà ragione, oh via, per carità, a tutti, vi ammazzare a tutti. Non solo a lui, no, anche l'altro bisogna ammazzare, anche tutti e tre bisogna ammazzare, non due, no, tre, bisogna ammazzare a lui, il lodo coreano e cinese, hai capito? Attore, telefono, ci cerchiamo dopo eventualmente, dai. D'accordo, ok. На первом установку новых и восстановленных отопителей по самым оптимальным ценам. Ремонт ваших отопителей с гарантией 6 месяцев. В наличии новые ИБУ, запчасти для заправки и источников. Режим работы из 9 до 20 часов. Телефонная связь 226-41-43. Повтор блоков через 30 минут. Палачик, удельчи. Allo. Non è un problema. Come si va? Come si va? Dai, carità, cazzo. Mi casino, vai. Tutto per la tua strada. E dove sei? Ah? Ho capito. Ciucucciù. Ora. Ciucucciù. Thank you.